Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Avevamo detto, sono passati 7 giorni ed e eccoci siamo qua. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Incredibile, questa puntata inizierà col bicarbonato di sodio. E poi parleremo di vacanze, andremo nello spazio a farle? Perché no? E poi conosceremo meglio i mammiferi con le ali, i pipistrelli. E infine abbiamo bisogno di tessuti ecologici che però non possono venire tutte dalle fibre naturali. È un digestivo? E invece no, è vero. O forse lo è anche. Lo è anche. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, perché ancora una volta diamo spazio ad una vostra domanda, ad una vostra curiosità e cerchiamo l'esperto o l'esperta che possa darvi e darci una risposta. Questa volta abbiamo selezionato una domanda che ha proprio a che fare con il bicarbonato di sodio. Mirko ci dice: ma a cosa serve davvero il bicarbonato di sodio? Se ne sentono di ogni, utile per il mal di stomaco, per la pulizia della casa, come agente lievitante in cucina. Che cosa c'è di vero? C'è ovunque, è vero, questo è vero, è vero. Come mai? In ogni casa, dici, c'è una confezione di bicarbonato? No, no, ma lui ha ragione, perché anche in tante altre situazioni si parla di agricoltura, a un certo momento viene fuori il bicarbonato di sodio. Noi giriamo la domanda a Piero Baglioni, docente di chimica fisica all'Università di Firenze. Buonasera Baglioni. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo di bicarbonato. Bicarbonato di sodio è un additivo alimentare, ma a cosa serve e perché potenzialmente ha tutte queste virtù, o meglio, è così eclettico nelle sue funzioni? Non è solo un additivo alimentare. Il bicarbonato di sodio è una delle più importanti sostanze semplici che vengono prodotte in chimica, e questo è il motivo per cui è una sostanza particolarmente utile, che diciamo a livello domestico è utilizzato in 1000 usi diversi, che vanno dalla lievitazione per esempio alla pulizia, ma in chimica è usato in un processo che si chiama processo Solvay. E Solvay era l'inventore della soda, che è una delle sostanze più utilizzate in chimica, che è un intermedio che serve per la produzione di un numero infinito di sostanze. Il bicarbonato è un intermedio, cioè è il precursore di questa soda che fu diciamo inventata da Ernest Solvay, che era un belga. E la Solvay, che è un'azienda tuttora una delle più importanti industrie chimiche del mondo, è il più grande produttore di soda e di bicarbonato che c'è al mondo. E perché è importante il bicarbonato? È una molecola molto semplice, una parte della molecola è uno ione che si chiama ione carbonato, e questo ione carbonato è una delle sostanze più diffuse, diciamo degli ioni più diffusi in natura. Noi non esisteremmo se non esistesse questo ione carbonato. Per esempio nelle ossa è presente questa parte, diciamo questo costituente elementare delle molecole, della struttura ossea più complessa. È un qualcosa che viene prodotto per esempio dal pancreas, quindi noi produciamo bicarbonato continuamente. Il bicarbonato che l'organismo produce serve per regolare il pH all'interno del corpo umano. A proposito del fatto che sia prodotto proprio dal nostro organismo, prima già Federico citava il fatto che sembrerebbe essere utile in caso di bruciori di stomaco. È vero e perché? No, è verissimo, perché il bicarbonato è una sostanza che è una base molto debole, quindi va a reagire con gli acidi che sono all'interno dello stomaco, e la molecola diciamo reagisce, forma un'altra molecola che è anidride carbonica. Quindi l'anidride carbonica è quella che poi, quando uno prende il bicarbonato, in genere ha eruttazioni e va via quel senso di bruciore sullo stomaco. Serve anche questo, insomma. Certo che serve, ed è lo stesso principio della lievitazione, solamente quando uno usa il bicarbonato per fare lievitare, volendo, il pane, ma in genere si usa per le torte, è un processo simile, solo che non è fatto diciamo in presenza di acidi, ma è generato dall'aumento di temperatura, quindi si ha la formazione di anidride carbonica che è diciamo prodotta per via termica. Poi lo potete usare, si può usare per la pulizia, perché è una molecola semplice, interagisce con le sostanze che sono assorbite sulle superfici e le smonta, le stacca. Ricordiamone un altro di uso. Il bicarbonato funziona perfettamente per la pulizia dei denti, perché per il motivo che abbiamo detto prima, riesce a staccare diciamo lo sporco che è attaccato sulla dentina. Non solo, siccome un bicarbonato può in alcune condizioni riformare del carbonato di calcio e proteggere la superficie del dente. Se usciamo però da cucina, igiene personale, anche in applicazioni industriali probabilmente lo troviamo spesso. Ce ne sono tantissime applicazioni industriali. Una che per esempio viene studiata in questi anni è per la CO2 che è dispersa nell'atmosfera, quindi si sta studiando la possibilità di utilizzare il processo Solvay invertendolo per l'immagazzinamento della CO2 dall'atmosfera e quindi formare bicarbonato in modo tale, o carbonati, in modo tale da diminuire la quantità di anidride carbonica, e questo è importante a livello ambientale. In realtà poi il processo è costoso e non è ancora chiaro se noi riusciamo, però questa è una parte degli studi attuali. Ecco, ma ci chiarisca un po' meglio in che cosa consiste questo processo? È perché se lei vuole formare del bicarbonato, in genere si parte nel processo Solvay, si parte da acqua, cloruro di sodio, che sarebbe il volgare sale da cucina, ammoniaca e anidride carbonica. Quindi ogni molecola di bicarbonato che viene formata sostanzialmente immagazzina una molecola di anidride carbonica. È una delle reazioni chimiche in cui viene consumata anidride carbonica, e questa va presa da qualche parte. Il problema è quanta ne produciamo e la velocità con cui la produciamo, per cui se ne mettiamo milioni e milioni di tonnellate è ovvio che dovremmo produrre milioni e milioni di tonnellate di bicarbonato. Insomma, diciamo che questo uso del bicarbonato è ancora un po' lontano, però insomma Mirko aveva ragione, cioè effettivamente entra da tutte le parti. Entra ovunque. Mirko aveva ragione, anche negli shampoo entra. Per fortuna che le torte non fanno il ruttino, che sarebbe veramente brutto. Lo sapevo che lì volevi arrivare, perché hai aizzato l'antenne quando all'inizio ha sottolineato questo effetto collaterale dell'uso del bicarbonato. Ringraziamo Piero Baglioni, docente di chimica fisica all'Università di Firenze. Buona serata e buon weekend. Grazie. Il bicarbonato c'entra col traffico? No. Però adesso vi ascoltate le notizie. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato, per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, te lo ricordi quando si cantava tempo d'estate, io vado al mare, voi che fate? Questo non me lo ricordo, però so che tu vuoi dire che si potrebbe andare... Beh, di estate di solito ci si interroga, lo facciamo spesso, lo fanno spesso i nostri colleghi, dove sono, dove andranno in vacanza gli italiani, e noi non vogliamo essere da meno, però vogliamo guardare al futuro e quindi vogliamo chiederci... Su. Se effettivamente fra un paio di anni andremo in vacanza nello spazio. Che poi lì è stato inverno, non c'è. E allora parliamo di turismo spaziale e lo facciamo con chi se non con un astronauta? Lo facciamo con Umberto Guidoni. Buonasera, benvenuta a Mebius. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera Guidoni. Insomma, astronauta, astrofisico, divulgatore, lei è stato il primo italiano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Che dire, fra un paio di anni andremo in vacanza nello spazio? Beh, non lo so se saranno proprio un paio. Diciamo che fra qualche anno, forse una decina, potrebbe essere possibile andare nello spazio per vacanza, quindi anche persone che non sono necessariamente degli astronauti di professione. All'inizio non sarà proprio a buon mercato, ma sicuramente ne vale la pena. Che cosa dobbiamo immaginarci? Una stazione spaziale dedicata a un turismo magari per una decina di giorni, oppure si parla anche di questi voli, insomma, tipo shuttle che partono da Terra, partiranno, faranno magari 5 o 6 giri del pianeta e torneranno giù. Sono queste, no, le cose di cui si parla come turismo? Beh, diciamo, all'inizio saranno soprattutto dei voli, come si dice, parabolici, suborbitali, quindi in realtà non si farà neanche un giro intorno alla Terra, ma semplicemente si arriverà oltre la quota dei 100 chilometri, che è un po' il limite dove finisce l'atmosfera terrestre e comincia lo spazio. E questo è già praticamente pronto, nel senso che addirittura la Virgin, quella della compagnia aerea che fa tante cose, tra cui anche l'idea di portare turisti a fare questa esperienza che io chiamo una gigantesca montagna russa. In questo modo chi partecipa al volo, che durerebbe una mezz'ora circa, potrà fregiarsi comunque del titolo di astronauta, perché comunque chi va oltre i 100 chilometri, diciamo così, è astronauta. E vedere comunque la Terra da un'altezza quasi come quella degli astronauti e provare la sensazione di assenza di peso per qualche, forse 5 minuti, insomma. Ecco, a proposito di questa sensazione, però andare nello spazio non è proprio la stessa cosa che prendere un aereo. Ecco, richiede una serie di sfide e di adattamenti fisici e psicologici, tant'è che voi astronauti, insomma, fate un percorso di addestramento e di formazione lungo, di tutto rispetto. Ecco, allora partire prevede non soltanto sborsare tanti soldi, ma in qualche modo anche una sorta di addestramento? Sì, in effetti, diciamo, ci sono alcuni esempi che si contano veramente sulle dita di una mano o poco più, di persone che hanno pagato cifre iperboliche, decine di migliaia di milioni di dollari per andare a bordo della stazione spaziale. Al momento credo siano 7 in tutto quelli che l'hanno fatto e che effettivamente hanno dovuto fare una preparazione, se non proprio come quella degli astronauti, comunque di diversi mesi. Hanno volato con la Soyuz russa, con la capsula russa, quindi hanno passato a Mosca diversi mesi per addestrarsi e anche hanno dovuto imparare un po' di russo, perché tutto quanto è scritto in cirillico. Però vuol dire questo, ecco, facciamo questa differenza: per fare un volo di questi che lei ci descriveva prima, una mezz'ora oltre i 100 chilometri, per questo comunque ci sarà bisogno di una preparazione di base e non semplicemente salire sul mezzo? Perché certo noi tutti ci domandiamo, voi fate anche 5 anni di addestramento, certo voi dovete anche avere funzioni da svolgere, quindi c'è molto di più, però la parte fisica del vostro addestramento è notevole. Ci stiamo domandando se non diventerà un inferno questo volo di mezz'ora. Beh, diciamo, il volo di mezz'ora probabilmente non ha sul corpo umano la stessa sollecitudini, diciamo, che ha una missione nello spazio. Stare per pochi minuti in assenza di peso non dovrebbe comportare gravi difficoltà, quindi basterebbero probabilmente qualche giorno per prepararsi al volo e soprattutto conoscere un po' il veicolo, un po' come, diciamo, quando uno sale sull'aereo che l'equipaggio ti fa vedere dove sono le uscite di emergenza. Ecco, per lo spazio è un po' più complicato, quindi non basta un minuto, ma ci vuole qualche giorno. Invece, se pensiamo a permanenza in orbita, per esempio a un albergo nello spazio, come qualcuno sta pensando di costruire costruire, già si pensa che alla fine della stazione spaziale, quindi fra il 2020 e il 2025, diciamo, potrebbe essere utilizzata alcuni dei moduli per ospitare dei turisti. Naturalmente dovrebbero essere un po' più confortevoli di come sono oggi, e in quel caso sì, ci sarebbe bisogno di una preparazione fisica prevalentemente, perché il corpo umano in assenza di peso subisce delle modifiche, diciamo, c'è quello che gli astronauti chiamano il mal di spazio, che sostanzialmente è un po' come il mal di mare, quindi bisogna imparare a conoscere i sintomi e in qualche modo a gestirli. Ecco. Cioè la mancanza di riferimento basso-alto un po' a disorientarci, sì, a creare, sì, questo mal di spazio. Sicuramente quello, è anche il fatto che il sistema dell'equilibrio va in conflitto con quello che è la percezione degli occhi, e questo crea malessere, no? Un po' come succede appunto sulle navi. C'è questa cosa singolare, no? Che noi non ci accorgiamo ovviamente quando stiamo qui con i piedi sulla terra, che c'è il su e il giù. Poi alcuni astronauti hanno detto che al di là della nausea c'è proprio questo disorientamento, perché non c'è più il su e il giù come riferimento preciso, lo perdete, no? E allora c'è anche una sensazione psicologica che bisogna recuperare. Sì, non c'è dubbio che, diciamo, noi siamo abituati appunto che il sistema dell'equilibrio ci dà immediatamente la sensazione se siamo a testa in giù, il sangue va alla testa, quindi insomma te ne accorgi sulla terra se hai cambiato posizione. Nello spazio tutto questo non succede, quindi effettivamente le due posizioni sono equivalenti, e questo all'inizio ti confonde un po', però con la pratica dopo qualche giorno si riesce perfettamente a stabilizzare, diciamo. Il periodo pericoloso è quello della transizione dalla condizione normale in cui viviamo sulla Terra alla condizione in cui trovi nello spazio. Superata quella ci si può anche divertire, anzi sicuramente ci si diverte in assenza di peso. Ecco, diciamo che un adeguato addestramento dovranno farlo quei cittadini non astronauti che andranno nello spazio, che faranno, se lo faranno, il giro attorno alla Luna, stando alle promesse del miliardario fondatore di SpaceX, che promette in qualche modo che entro una decina di anni o poco più diventeremo una specie multiplanetaria. Cosa ne pensa lei, Guidoni? Sì, io penso che, diciamo, la strada è quella. Non scommetterei su 10 anni, io non scommetterei che nel 2024, come diceva appunto Musk, potremmo mettere piede su Marte e addirittura costruire una colonia, diciamo così, di persone che vivono su Marte. Non, mi sembra che ci vorrà un po' di più, però sicuramente credo che in prospettiva appunto quello sia un po' il destino dell'umanità, come sempre è stato sulla Terra. Ogni volta che noi abbiamo trovato una barriera, una montagna, un oceano, poi abbiamo trovato il modo di superarlo. Ecco, adesso di fronte a noi c'è un ostacolo ben più grande, ma comunque piano piano riusciremo probabilmente a superare questo grande oceano di vuoto che c'è fra noi e la Luna, fra noi e Marte e così via. Beh, certo che però un turismo che fa il giro dietro la Luna e torna giù comincia a essere professionale, lì bisogna essere in gamba. Tra l'altro non può essere un turismo di una o due persone. Bisognerà anche pensare a dei veicoli molto più grandi di quelli che sono stati utilizzati finora per portarne su una ventina, no? Sì, in effetti, sempre riferendoci alla ipotesi di Musk, lui parlava di veicoli capaci di portare un centinaio di persone, che anche quello mi pare già difficile di per sé da realizzare, visto che oggi non siamo in grado di costruirne nemmeno uno che ne porta pochi di persone verso Marte. Per la Luna in realtà Musk aveva parlato addirittura di un paio d'anni, no, per fare, sì, il giro intorno alla Luna, e in quel caso faceva riferimento a un volo per soltanto due ricchi contributori, che peraltro andavano da soli. Questo francamente mi pare un pochino azzardato, perché insomma almeno un astronauta di professione ci dovrebbe essere per gestire le situazioni, diciamo, in caso di qualcosa emergenza, che non funziona. Sì, perché sembrerebbe che dire di emergenza, ma semplicemente una cosa che insomma non funziona proprio come previsto. Ecco. No, ma infatti sembrerebbe che in quel caso il volo sarebbe pilotato interamente da terra, ma i due turisti spaziali dovrebbero in qualche modo essere preparati per saper gestire almeno alcune procedure nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Senta, ma lei sullo spazio c'è stato, ci tornerebbe per andare in vacanza? Un pensiero Marte ce lo fa, ce lo farebbe? Io ci tornerei anche subito, non pagando quelle cifre che oggi, diciamo, sono citate. Beh, sono iperboliche. Sono chiaramente cifre che non sono disponibili per quanto mi riguarda. Però sicuramente ci andrei, e secondo me è comunque un'esperienza che vale la pena di fare, ripeto, non a questi prezzi, ma quando alla fine si stabilizzerà il mercato, diciamo, come sempre succede, probabilmente i prezzi scenderanno, e a quel punto anche spendere decine di migliaia di euro per fare una esperienza di questo genere, secondo me li vale tutti. Possiamo pensare magari che da qui a un secolo, con buon senso, forse con 5.000 euro una settimana si potrà fare nello spazio, però certo bisognerà costruire oggetti molto più grossi, questo non è banale, no? No, sicuramente non lo è, e ancora più difficile è lanciarli da terra, quindi probabilmente questi veicoli saranno costruiti in orbita, quindi da questo punto di vista io immagino che ci sarà progressivamente una trasformazione con veri e propri hangar nello spazio in cui si costruiranno questi veicoli che poi porteranno i turisti magari sulla Luna o su Marte, poi ci saranno delle basi, delle infrastrutture, cioè un po', diciamo, su una scala tutta diversa quello che è successo quando è cominciata la ferrovia, o come quando sono cominciati i voli aerei, insomma, certo. Creare le infrastrutture che poi permetteranno nel corso dei decenni di allargare la platea delle persone che possono andare nello spazio. Io credo che diciamo, dal punto di vista delle emozioni, ma ancor più dell'esperienza, vedere la Terra dallo spazio è una cosa che comunque ti cambia le prospettive, forse ci aiuterà a essere un pochino più amici del nostro pianeta. Ecco, poi naturalmente se uno si aspetta di avere una piscina perché è in vacanza, quello ci deve fare la croce sopra, perché... Però mi pare che adesso voi abbiate una possibilità di fare una doccia, no? Cioè ci sono dei sistemi che una volta erano assolutamente assenti. C'è la possibilità. La doccia ancora no, ancora no. Che non ci possiamo permettere nello spazio. Quello che nel frattempo è capitato è che a bordo della stazione spaziale ci sono un po' più di diciamo così oggetti di ricreazione, no? Rispetto a prima. Adesso c'è un televisore grande per vedere le partite di calcio o di football, ci sono diversi dispositivi per proiettare film e così via. Libri, insomma, non è più la stessa stazione spaziale dove è stato lei nel 2001. No. Però secondo me, fra tutti questi hobby, tra questi passatempi, quello che secondo me è più bello comunque è quello di guardare semplicemente fuori mentre si percorre un'orbita e si vede la Terra cambiare colore, cambiare aspetto, cambiare tutto. E insomma, Umberto Guidoni, che dire, la sfida umana e tecnologica, pensando allo spazio, alle vacanze, ma non solo, continua. A lei buona estate. Grazie anche a voi. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Quest'estate Dylan Dog ritorna su Radio 24 e con lui Gruccio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20:10 su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, container, con Massimo De Donato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Li avete riconosciuti? Sono i vocalizzi dei mammiferi con le ali. Però forse in effetti non è corretto chiedervi se li avete riconosciuti, perché di fatto noi non riusciamo a percepire questi ultrasuoni, appunto non riusciamo ad ascoltare la voce dei pipistrelli in questo modo. Questi suoni sono udibili alle nostre orecchie perché captati da un bat detector. Ne parliamo con Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, che è un esperto di pipistrelli e ce li farà conoscere questa sera. Buonasera. Buonasera. Insomma, parliamo di mammiferi, dei mammiferi con le ali, quindi chirotteri, ma cos'era il suono che abbiamo sentito? La voce di un pipistrello del genere Remiotis. Studiando ovviamente i vocalizzi al computer. Quindi utilizzando quello che ho chiamato prima bat detector, cioè che rende udibile ai nostre orecchi i vocalizzi ultrasonici emessi dai pipistrelli. Sì, sì, esatto. Ecco, ascoltare le emissioni vocali di questi animali è importante proprio per poter fare un monitoraggio. Sì, esatto. Nella nostra regione abbiamo circa 30 specie di pipistrelli e con il bat detector noi arriviamo a riconoscerne sicuramente un 12, che è un numero abbastanza elevato, no? Per cui abbiamo un primo modo di vedere che cosa vola sopra le nostre teste. Ecco, in realtà ne esistono tante di specie, più di 1000 insomma, più di 1000 specie di pipistrelli. Sono 1240 nel mondo e quindi sono uno dei maggiori gruppi di mammiferi esistenti. Ecco, in Italia e in generale in Europa quali troviamo? In Italia ce ne sono attualmente note 35 e in Europa si arriva a 37 o poco più. Parliamo di pipistrelli di piccole dimensioni. Sì, esatto. In Europa qua ci sono soltanto microchirotteri, che sono tutti insettivori e tutti usano un sistema di riconoscimento di ostacoli a base di ultrasuoni, una sorta di radar che consente loro di volare di notte e cacciare. In effetti i pipistrelli forse sono famosi proprio per questo sistema di ecolocalizzazione, che è basato proprio su questa emissione di questi click ultrasonici. Come vengono emessi? O con la faringe oppure col naso. Ecco, poi questi suoni rimbalzano praticamente sugli oggetti, tornano al pipistrello e così il pipistrello, esatto, si fa un'idea degli ostacoli che incontra nel suo volo. Esatto, esatto. È un sistema molto preciso che è stato addirittura copiato dai militari americani per inventare un radar, che è il radar che poi usiamo ancora oggi. Quindi in pratica i pipistrelli vedono, diciamo così, attraverso questo sistema, però hanno degli occhioni. Infatti il fatto che vedano soltanto attraverso ultrasuoni è una storia errata, perché loro ci vedono molto bene con gli occhi, però se il buio è totale, allora entra in funzione questo interessante e unico sistema di ecolocalizzazione a base di ultrasuoni. I due sistemi in ogni caso si integrano, per cui il pipistrello ha una visione integrata sia da fotoni sia da ultrasuoni. Perché di fatto sono animali crepuscolari, sono animali notturni. Notturni, sì. Notturni per una questione antipredatoria, probabilmente. Ecco, sono facili prede di chi? Dunque, se si muovessero di giorno verrebbero predati da falchi, da cornacchie, da gatti, eccetera. Muovendosi di notte, almeno i predatori diurni vengono esclusi, che sono moltissimi. La notte vengono invece predati sicuramente, per esempio, da barbagianni e qualche piccolo carnivoro che è intrusivo, per cui si infila nelle soffitte e fessure dove questi abitano, ad esempio la faina. Ma in casa si vengono catturati in particolare dai gatti di casa, che li aspettano all'uscita dei loro rifugi e li catturano. Senta, ma invece predano chi i pipistrelli? Insomma, le zanzare lo sappiamo perché l'abbiamo detto nel corso di qualche puntata fa. Sì, i pipistrelli sicuramente mangiano insetti in generale. E fra le specie più comuni in città, appunto, c'è un pipistrello che cattura molte zanzare, che è il pipistrello albo limbato, che è una specie che abita in tutti i condomini e città, allestendo nursery sotto le grondaie. Quindi insomma facile da incontrare nelle serate estive. Sì, sì, Sfattiamo però alcuni luoghi comuni. Insomma, non dobbiamo aver paura, non si attaccano ai capelli e men che meno si attaccano al collo per succhiare sangue. Assolutamente. Il fatto che si attacchino ai capelli è una leggenda destituita di qualsiasi fondamento, mentre il sangue lo succhiano unicamente alcuni pipistrelli sudamericani che si chiamano novampiri veri e che in ogni caso sono non pericolosi non perché succhiano il sangue, e per lo più lo succano alle mucche, intendiamoci, ma perché in questo trasferimento di saliva da una mucca, per esempio, a un altro mammifero magari ammalato di rabbia, possono attaccare la rabbia. Ma è un fatto comunque sudamericano. Senta, siccome all'inizio abbiamo aperto questa chiacchierata dicendo conosceremo un po' meglio i mammiferi con le ali, di fatto i pipistrello sono gli unici mammiferi capaci di praticare il volo. Il volo, come dire, battuto, perché ci sono molti altri mammiferi che sono in grado di planare, ma il volo battuto lo praticano soltanto i pipistrelli. Lo praticano con un'ala che è in sostanza l'evoluzione di una mano assolutamente uguale a quella dell'uomo in termini di ossa, ma le falangi di questa mano si sono molto allungate, in particolare le falangi di indice medio, anulare e mignolo, per intenderci, e quindi hanno costituito una mano lunghissima che funge da telaio per una specie di patagio, membrana alare che ha una elevata capacità portante. Cioè le ali si chiamano appunto patagi? Sì, il patagio è una membrana doppia che unisce tutte le dita alle zampe posteriori e dalla la coda e consente al pipistrello di volare molto agilmente, addirittura molto più agilmente di quanto non facciano gli uccelli, che in ogni caso c'ha un problema, c'ha una elevatissima traspirazione, no? Per cui se i pipistrelli si mettono a riposare in un posto un po' secco è facile che si secchino. Per questo, quando riposano di solito in anfratti, in grotte. Esatto. E senti, poi un'altra curiosità, è vero che quando, cioè l'immagine che abbiamo del pipistrello che si appende a testa in giù e che praticamente si avvolge in questo mantello protettivo costituito poi da queste membrane alare, è vero? Tutti i pipistrelli lo fanno? È solo un'immagine veicolata più dalla fiction? Ma dunque ci sono alcuni che lo fanno in modo abituale, per esempio i ferri di cavallo o rinolofidi, ma molti altri no. È certo che in ogni caso il patagio ha un'importanza enorme per tutte queste specie, sia per il volo che molto spesso per la cattura in volo di animali che vengono non talora catturati usando le ali o il patagio intermedio fra le ali e le zampe, un po' come una sorta di racchetta che raccoglie proprio gli animali in volo. Il pipistrello lo poi si lascia cadere per un qualche metro e intanto afferrano con la bocca l'insetto che ha intrappolato. Senta, per concludere, alcuni anni fa la regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un'azione, un'attività di monitoraggio per conoscere la distribuzione e quali specie di pipistrelli appunto sono presenti in regione, anche per poterli salvaguardare, visto che, se non sbaglio, appunto sono molto vulnerabili ai cambiamenti ambientali, quindi ad alcune attività umane. La regione è obbligata a rendicontare sullo stato di conservazione di varie entità protette dalla direttiva Habitat e quindi ha l'obbligo statutario di monitorare le specie più a rischio. I pipistrelli sono tutti considerati estremamente a rischio e quindi la regione ha incaricato il nostro istituto di monitorarne la presenza nel territorio dell'intera regione. E qui ritorna al discorso che abbiamo fatto prima, l'importanza del monitoraggio, l'importanza anche di monitorare la presenza di specie di pipistrelli nel territorio anche attraverso il bug detector, quindi attraverso il riconoscimento dei loro vocalizzi. Luca Lappini, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Voi non avete il sonar come i pipistrelli, guardate avanti nel traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestia in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È un problema singolare quello di cui stiamo per parlarvi e lo facciamo questa sera con Aurora Magni. Buonasera Aurora Magni. Buonasera. Della società Blumine, che è una società che lavora nel campo dell'industria dei tessuti guardandola dal punto di vista della sostenibilità. Blumine ha curato l'edizione di un libro uscito per i tipi della edizione Ambiente, no? Ricordaci Aurora di che cosa si tratta. Allora, questo... il titolo è Neomateriali nell'economia circolare, punto moda. La casa editrice Edizione Ambiente, ed è un volume interessante secondo me perché racconta i materiali tessili valutandoli in funzione del grado di sostenibilità sostenuto da evidenze scientifiche. Ci diamo del tu perché sei anche giornalista e comunicatrice, nonché molto esperta tecnicamente in questo settore. Allora Magni, qui c'è questo problema, e cioè siamo in tanti, dobbiamo vestirci e le sostanze naturali con le quali si fanno i tessuti non bastano più e quindi bisogna riuscire ad accedere nel modo migliore anche a sorgenti non naturali o perlomeno non sono i tessuti classici, cotone, lana, bisogna tirarle fuori da altre cose che sono naturali e che per esempio sono il petrolio. Comincia a portarci dentro questo problema. No, allora la storia è lunga e complicata ma anche molto affascinante, nel senso che gli uomini si sono vestiti di fibre naturali per millenni. Le fibre sintetiche, quelle di cui parli tu, cioè provenienti che hanno origine da materiali fossili, entrano in campo in realtà 60 anni, 70 anni fa. Quindi sono prodotti ancora molto recenti, ma che hanno avuto una crescita esponenziale. Considera che su 90 milioni di tonnellate di fibre tessili prodotte ogni anno, 63-64 sono sintetiche, milioni sono sintetiche. Il cotone copre una parte ancora molto importante, ma i volumi sono abbastanza stabili per quanto si sia intensificata la produttività della terra e delle coltivazioni, sono circa 20 milioni di tonnellate. Quindi la parte di tessile prodotto partendo dal petrolio è veramente molto importante. Se pensiamo che ogni anno vengono messi sul mercato qualcosa come 80 miliardi di nuovi capi di abbigliamento, ci rendiamo conto insomma che il trend è praticamente inarrestabile, anche perché questi materiali non entrano solo nell'abbigliamento, ma in generale nell'utilizzo del tessuto nel mondo. E sono dati, come dire, inevitabili. Forse si potrebbe ragionare, come su tante altre cose, ad una diminuzione, insomma, dei consumi, però insomma questa quota forte dobbiamo gestirla così. Non è modificabile, perché i consumi mondiali aumentano, sono entrati sulla scena consumatori che fino a 20 anni fa non lo erano, con questo peso, pensiamo ad aree del mondo come la Cina, ad esempio l'Asia, e quindi questo ha generato un incremento di consumi, oltre al fatto che la popolazione mondiale aumenta. Le fibre naturali, che sono fantastiche per tanti motivi, hanno il limite di essere ovviamente legati alla terra, per cui più di tanto lo sfruttamento intensivo non lo puoi fare, anche perché è comunque in competizione l'uso del terreno con, ad esempio, la produzione di altre cose, ad esempio il cibo. Quindi quello che si può fare, e si sta facendo e si deve fare sempre di più, è incrementare la sostenibilità di queste fibre man-made, cioè delle fibre fatte dall'uomo. Una prima domanda che ti faccio: c'è ricerca che ci porterà probabilmente ad avere dei materiali riciclabili? Sì, ti correggo solo un termine, perché quando si parla di artificiali in realtà si parla di fibre, materiali fatti dall'uomo, ma partendo da una base naturale. Quindi, hai ragione. E qui la storia ci riporta addirittura all'Ottocento, oppure a vicende in cui l'Italia degli anni 30 del secolo scorso ebbe anche modo di esprimersi parecchio, no? Con materiali come il Lanital, ad esempio, che ci piacciono poco perché ci ricordano periodi non felici, ma che furono all'epoca, come dire, risultato di grandi ricerche tecnologiche. Quello che si può fare oggi, e su questo c'è molto dibattito tra le aziende e scelte anche aziendali diverse, è agire su due livelli. Uno è quello di sganciare il più possibile queste fibre fatte dall'uomo dalla dipendenza del petrolio. L'altra è usare materiali riciclati e riciclare sempre di più. Allora, nel primo caso ci sono delle esperienze importanti anche fatte da aziende italiane, perché sostanzialmente si è riusciti a produrre, diciamo, i polimeri, gli acidi necessari a produrre i polimeri, sostituendo il petrolio, che si porta dietro ovviamente dei costi ambientali molto forti, con materiali rinnovabili, ad esempio derivati da amidi o dai semi della pianta del ricino. Naturalmente stiamo parlando di quantitativi molto piccoli, ancora modesti. Assolutamente, e vorrei che fosse chiaro che questi nuovi prodotti, questi biopolimeri, sono molto interessanti per la storia che raccontano, ma non cambiano quello che è uno dei limiti principali delle fibre man-made, e cioè la non biodegradabilità, o comunque il basso livello di biodegradazione, per cui tu comunque alla fine hai un poliestere che nasce da un materiale rinnovabile, ma che è un poliestere, non è che se lo sotterri cresce un fiore, certo. Si scarica molto tempo. L'altro fronte importante è quello del riciclo, che significa produrre fibre man-made da materiali scartati da altre filiere produttive, prima di tutto il packaging, quindi le famose bottiglie di acqua minerale, che hanno la stessa struttura chimica del poliestere e quindi possono facilmente venire trasformate in materiale filabile, quindi vivere sotto forma di capi di abbigliamento, tessuti per automobili, sì, certo, eccetera. E questo è ancora, anche in questo caso, una percentuale minoritaria, qualcuno dice il 5%, qualche altra fonte parla di volumi un pochino maggiori, ma incomincia a farsi strada nelle produzioni di fibre man-made. Ma naturalmente la scommessa difficile è riportare i materiali tessili, una volta raggiunti il fine vita, a essere riciclati e quindi a dare vita ad altro materiale di base. Sì, qui possiamo concludere su questo. Dobbiamo stare attenti che poi la vera soluzione complessiva è che noi si abbia anche dei materiali, appunto, che possono presentare dei problemi di sostenibilità, ma però la sostenibilità la raggiungiamo perché riciclando, recuperando, continuiamo a usare sempre la stessa quantità di materie, questo è cruciale. Sì, se posso aggiungere, c'è un problema da non sottovalutare legato al fatto che nel momento in cui io riciclo un materiale, un prodotto che è stato fabbricato con criteri di sostenibilità, ad esempio con attenzione ai trattamenti chimici, coloranti, però si sta lavorando, ecco, vorrei mandare un messaggio positivo. Assolutamente. Aurora Magni, grazie e grazie buon lavoro. A voi. Buonasera. Silenzio, senti qualcosa? Io? No. La macchina macina caffè silenziosa sta per arrivare. Il nostro concorso, te lo ricordi? Io sì. Buona settimana a tutti. A tutti e a tutte.